GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la ricorrenza di ogni santi al monumento ossario di Gonars, dove tra il 1942 e il 1943 sorgeva il campo di internamento per civili sloveni e croati, si è tenuta la tradizionale cerimonia commemorativa delle oltre 500 persone che vi morirono di fame e di malattie. La giornata festiva registra traffico intenso sulla rete autostradale regionale, rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste, difficoltà segnalate tra San Giorgio di Nogaro e il bivio A4 A23, con ulteriori code alla barriera di Trieste-Lisart. Completato l'intervento sanitario urgente che ha portato all'abbattimento di 25.000 tacchini nell'azienda agricola di San Giorgio di Nogaro dopo che un focolaio di influenza aviaria era stato rilevato nel sito. Ora si tiene la bonifica dello stabilimento. Nuovo socio di maggioranza e nuovi capitali, il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di ristrutturazione del debito della Rizzani De Eckar, storica società friulana, è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni. Usano già molti strumenti digitali, specie in sanità, e sono favorevoli allo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata anche al lavoro. I cittadini del nord-est si dimostrano sensibili alle nuove tecnologie e attenti alla sostenibilità ambientale, e quanto emerge da un questionario presentato dall'Università di Trieste. A Pordenone, dove è in corso la manifestazione Io creo, dai vita alle tue idee, una fiera dedicata all'amore per la creatività con particolare attenzione per i lavori fatti a mano. Pat Metheny, grande protagonista ieri sera al Giovanni da Udine del concerto che ha aperto la rassegna Nuove note di Euritmica. Lo sport nel basket, scontro di vertice in A2, stasera Cividale ospiterà al Palagesteco la capolista Cantù per continuare il momento magico. Le 12.32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 1 novembre, festa di Ogni Santi, il giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la ricorrenza di Ogni Santi, appunto. A Udine l'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba ha presieduto stamane la solenne liturgia in cattedrale, mentre nel pomeriggio alle 15 celebrerà i Vespri nel cimitero urbano di San Vito. A Gorizia l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaeli celebrerà alle 15 presso il cimitero di Gorizia la liturgia di commemorazione dei fedeli defunti, mentre alle 19 in cattedrale si terrà la concelebrazione eucaristica in onore di tutti i santi. A Pordenone questa mattina il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ha celebrato la messa solenne in concattedrale con un particolare ricordo dei defunti della società operaia. Nel pomeriggio alle 15 a Borgo Cappuccini si terrà la liturgia della parola sulla speranza cristiana, sempre alla presenza del vescovo. A Trieste domani è prevista alle 10.30 nella chiesa del cimitero di Sant'Anna la Santa Messa in commemorazione dei fedeli defunti, presieduta dal vescovo Monsignore Enrico Trevisi. E questa mattina presso il monumento ossario di Gonars, dove tra il 1942 e il 1943 sorgeva il campo di internamento per civili sloveni e croati, si è tenuta la tradizionale cerimonia commemorativa delle oltre 500 persone che vi morirono di fame e di malattie. Un mai più gridato con voce sempre più sottile e flebile in un'epoca la nostra di guerre sempre più diffuse, quello che sale dal cimitero monumentale di Gonars, dove riposano le vittime slovene e croate del vicino campo di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. A dirlo la segretaria di Stato dell'Ufficio per gli Sloveni oltre confine e del mondo, Vesna Humar, che nel corso della tradizionale commemorazione annuale ha rivolto un pensiero anche alle vittime e agli sconvolgimenti delle guerre dell'oggi, dall'Ucraina al Medio Oriente. Circa 10.000 gli internati del campo di Gonars, gestito dal Regio Esercito Italiano tra il 1941 e il 1943. Almeno 500 di loro morirono per le disumane condizioni di vita a cui erano costretti, per la sola colpa di essere di lingua e di nazionalità slovena o croata, laddove il regime fascista intendeva italianizzare con la forza o in alternativa sterminare le minoranze della Venezia Giulia e delle terre slovene e croate occupate durante il conflitto. Alla cerimonia, svoltasi presso il cimitero monumentale di Gonars, oltre alla rappresentante del governo sloveno, anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo e il console generale di Slovenia a Trieste Gregor Schutz, originario di Nova Gorica, con l'ANPI e le associazioni combattentistiche del territorio. Presente anche un reduce della guerra di resistenza, Dorino Cantarutti di Manzano, classe classe 1927, sedicenne quando decise di salire in montagna per combattere i nazifascisti col nome di battaglia Verde. Indosso ancora oggi la camicia rossa delle Brigate Garibaldi. Gonars, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Lei Pacco si è tenuta una cerimonia organizzata dal gruppo alpini Udine Est con una deposizione della corona d'alloro presso il monumento della divisione Acqui in via Cefalonia. Arriverà invece per la 39esima volta a Trieste la fiaccola staffetta alpina della Fraternità, manifestazione organizzata dalla sezione ANA di Trieste. La fiaccola dalle 16 in poi farà tappa al cimitero di guerra austro-ungarico di Prosecco, quindi alla risiera di San Sabba, poi al monumento ai caduti a San Giusto, infine alla foiba di Basovizza. La giornata festiva vede traffico intenso sulla rete autostradale regionale. Si registrano rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste, difficoltà segnalate tra San Giorgio di Nogaro e il bivio A4 A23, con ulteriori rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisart. Code per lavori anche sulla A23 in direzione Tarvisio, in particolare nelle vicinanze dello svincolo Gemona-Osoppo e quello di Amaro. Gli automobilisti sono invitati a procedere con cautela e a considerare possibili ritardi lungo il percorso. E diamo uno sguardo ora alle condizioni meteo di quest'oggi, giornata festiva del 1° novembre. Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 18,5 gradi, a Udine 19,5, a Gorizia 19, a Pordenone 18,5 gradi, a Forlì di Sopra 16,5 gradi, a Tolmezzo 16 gradi, a Piancavallo 14,5 gradi, a Tarvisio 13, a Sappada 10,5 gradi, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussari 12,5 gradi. E passando alla costa, sta a Grado 17,5 gradi, a Lignano 17, quindi temperature piuttosto superiori alla media in questo periodo. E sentiamo quindi le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che prevede per questo pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso per possibili velature, in serata e nella notte possibile formazione di foschie o nebbie sulla bassa pianura, specie nel pordenonese. Domani nella notte al mattino sarà possibile la presenza di foschie o nebbie sulla bassa pianura, specie nel pordenonese. In giornata cielo in prevalenza sereno su tutte le zone. Dal pomeriggio sera inizierà invece a soffiare vento di bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta poi nella notte tra sabato e domenica a Trieste. Tra mercoledì e giovedì scorsi è stato completato l'intervento sanitario urgente che ha portato all'abbattimento di 25.000 tacchini nell'azienda agricola di San Giorgio di Nogaro, dopo che un focolaio di influenza aviaria era stato rilevato nel sito. Ora sono in corso le operazioni di pulizia e disinfestazione dei capannoni. Sono proseguite stamattina, con l'aiuto di una ditta romagnola specializzata, le operazioni di pulizia e disinfestazione dei capannoni dell'azienda agricola di San Giorgio di Nogaro, in cui si è diffuso il virus dell'aviaria. È stato utilizzato l'azoto a bassa temperatura per uccidere 25.000 animali. L'abbattimento di tutti i capi è una misura che protocolli internazionali ed esperti ritengono necessaria in questi casi per evitare il propagarsi dell'infezione. A portare il virus è stato quasi certamente uno degli uccelli migratori che gravitano nella zona, volatili che normalmente, quando si contagiano con questo patogeno, non si ammalano, a differenza di ciò che accade ai piccoli animali da allevamento come tacchini e polli. Con loro il virus si trasmette rapidamente e ha un alto tasso di letalità. Il rischio per le persone riguarda coloro che sono a stretto contatto con gli animali infetti. Per questo i 3 dipendenti dell'allevamento sono stati sottoposti a vaccino antinfluenzale e tampone. Precauzione dovuta perché quelle rare volte in cui l'aviaria riesce ad arrivare all'uomo può presentarsi in forme gravi. A coordinare e soprintendere le operazioni è l'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Una volta terminata l'attività di bonifica, l'allevamento rimarrà sigillato in quarantena per 42 giorni. Casi simili di epidemie di aviaria in aziende agricole sono stati registrati in altre parti d'Italia negli ultimi mesi e anni. Gli esperti sottolineano la sicurezza della filiera della carne che arriva sulle nostre tavole e l'ulteriore protezione data dalla cottura che, sopra i 70 gradi, uccide la maggior parte dei patogeni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca ritrovata nella tarda serata di ieri la 52enne scomparsa nella zona di Tarvisio. La donna, originaria del Tarvisiano ma residente in Austria, si trovava in fondo a un canale, infreddolita ma in buone condizioni. Dopo l'avvistamento ha aiutato i soccorritori a farsi individuare con la luce di un accendino. È stata poi recuperata con l'ausilio di una corda. Un'operazione congiunta tra soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco, che è stata condotta in perfetto affiatamento tra i vari corpi, con 25 uomini impegnati nelle ricerche e 2 unità cinofile del soccorso alpino. Durante i controlli straordinari stazioni sicure, la polizia di Trieste ha arrestato un 32enne triestino per spaccio di droga. L'uomo, appena sceso da un treno proveniente da Venezia Mestre, ha attirato l'attenzione degli agenti per il suo comportamento nervoso. Il fiuto del cane antidroga Gabi ha poi confermato i sospetti. Nel controllo sono stati trovati 30 grammi di cocaina, 14 di crack e 8 di oppiacei. Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto ulteriore droga e un bilancino. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con divieto di contatti esterni. Rizzani Decker ha raggiunto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Udine, consentendo così il rilancio del gruppo, reso possibile anche dall'ingresso di un fondo gestito da Sagitta SGR, che assumerà una posizione di maggioranza dell'azionariato. Nuovo socio di maggioranza e nuovi capitali, il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di ristrutturazione del debito della Rizzani Decker, storica società friulana e uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni. A darne la notizia la stessa azienda, che sottolinea come l'accordo sia fondamentale per il rilancio del gruppo, reso possibile anche dall'ingresso di un fondo di investimento gestito da Sagitta, che assumerà una posizione di maggioranza con il 67%, mentre il restante 33% resterà alla famiglia De Ecker. Complessivamente il piano di ristrutturazione riguarda un debito di circa 350 milioni di euro e prevede un'iniezione di nuove risorse finanziarie fino a 70 milioni, che consentiranno all'azienda di uscire dalla crisi finanziaria del 2023, che aveva portato a un passivo verso i creditori di oltre 900 milioni, e allo stesso tempo di consolidare la presenza del gruppo sui mercati internazionali. Un progetto di rifinanziamento di 4 anni che prevede in particolare un aumento di capitale di 35 milioni gestito dal fondo di Sagitta, società che ha già rilevato i crediti da 3 banche. Altri istituti non hanno aderito e saranno ripagati in altro modo. Inoltre, 2 altri istituti di credito hanno confermato un plafond complessivo pari a 410 milioni che dovrebbero consentire alla Rizzani Decker di continuare ad aggiudicarsi nuovi appalti. Se il piano si realizzerà come previsto, la nuova De Ecker focalizzerà l'attività in Europa, America del Nord e in Italia, dove il gruppo ha, tra gli altri, il cantiere aperto per l'ospedale triestino di Cattinara. Udine, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Usano già molti strumenti digitali, specie in sanità, e sono favorevoli allo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata anche al lavoro. I cittadini del Nord-Est si dimostrano sensibili alle nuove tecnologie e attenti alla sostenibilità ambientale. È quanto emerge da un questionario presentato dall'Università di Trieste. Nel servizio l'intervista alla ricercatrice Cristina Pedicchio. Un questionario di 40 domande su digitalizzazione e sostenibilità ambientale proposto a 2.000 persone in tutto il Nord-Est. L'indagine epidemiologica realizzata all'interno di INEST, un progetto del PNRR da 100 milioni di euro che coinvolge atenei e centri di ricerca del territorio, per il quale sono stati reclutati 321 ricercatori e dottorandi, di cui il 44% è donna. L'indagine demoscopica ha analizzato il livello di conoscenza e percezione dei cittadini sulla transizione digitale in tanti settori. Tema sanità. Voi usate le ricette elettroniche? Sì, una percentuale che a me ha stupito, il 45% usa le ricette elettroniche, il 46% usa il fascicolo elettronico. Più del 50% è favorevole a un'introduzione della digitalizzazione in sanità. Settore produttivo, secondo voi l'intelligenza artificiale ha una valenza positiva? Sì, 2/3 ci dicono assolutamente sì, bisogna utilizzarla. Cittadini positivi al cambiamento e consapevoli. Per esempio, l'80% ha dichiarato di sapere cos'è un gemello digitale, cioè un equivalente virtuale di un prodotto fisico. A Trieste l'università sta lavorando al gemello digitale del Mar Adriatico. Cosa serve? Per esempio, se si innalza il livello del mare in Piazza Unità di 4 centimetri, il modello virtuale può proiettare cosa succede e soprattutto, a seconda degli interventi, possiamo mettere delle barriere, possiamo spostare le persone, possiamo fare tante cose, a seconda dell'intervento il modello virtuale già ci dice cosa succede. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Pordenone, dove è in corso la manifestazione Io Creo, Dai Vita alle Tue Idee, una fiera dedicata all'amore per la creatività, con particolare attenzione per i lavori fatti a mano. Grande afflusso già dall'apertura nel primo giorno di Io Creo, manifestazione dedicata alla creatività e all'hobbistica in Fiera Pordenone fino a domenica. 70 espositori al padiglione 1, dove perdersi tra tessuti, perline, colori e prepararsi alle idee per il Natale. Stefania Berto dell'organizzazione. Quello che trovano i visitatori in questa fiera sono tutte le idee e i prodotti per costruire per sé o per i propri regali, per i propri amici, qualcosa per il Natale. Siamo sotto Natale, quindi si trova tutta la materia prima, l'oggettistica, sia del cucito creativo che delle perline, dei bijou, dell'accessoristica per farsi a se stesse e alle proprie amiche dei bellissimi regali per Natale. Ci si può cimentare in corsi e assistere a dimostrazioni pratiche per perfezionare o avvicinarsi alle tecniche creative manuali, ad esempio con ferri e uncinetto. Adesso ci sono tante ragazze che si stanno avvicinando a questo mondo che sembrava ormai perso. Sta piacendo questa cosa che proponiamo. Lo faccio per come passatempo, hobby, è un modo per tenere la testa occupata. La voglia di fare, di cucire a mano e soprattutto di fare qualcosa per se stessi, per noi stesse. Il colore per me è vita, il colore per me è cura, per cui lo applico sulle cose che faccio. Ogni capo che creo è un capo unico e in ogni capo c'è una preghiera che dedico alla persona che acquisterà il mio capo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Trieste Science Plus Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, oltre al ricco programma cinematografico al Rossetti e al Mira da spazi ai videogiochi con gli Ivi Pro Days 2024, in cui la fantascienza tornerà a essere la lente attraverso cui osservare la realtà tra risvolti politici, religiosi e filosofici. Il videogioco diventa una possibile risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale. Alcuni esempi esistono già anche in Friuli Venezia Giulia, ma si potrebbe fare molto di più, con bandi specifici che supportino iniziative di questo tipo. Se ne parla in questi giorni agli Ivi Pro Days nell'ambito del Trieste Science Plus Fiction Festival. Si è già visto in passato, spiega il presidente Andrea Dresseno, che utilizzare i videogiochi, vedi il caso di Assassin's Creed 2, ha portato a un beneficio di conoscenze e anche di turismo nei luoghi rappresentati nel gioco, vedi Monteriggioni. E quindi l'idea è proprio di supportare questo tipo di giochi, di prodotti e di parlarne, far capire anche alle istituzioni l'importanza di supportare e finanziare con dei bandi questo tipo di opere. L'Italia continua a un bacino di storie incredibile, per cui esistono moltissimi giochi inventati soprattutto nelle regioni più turistiche, vedi Veneto, Toscana e Lazio, ma anche in Friuli Venezia Giulia esistono esperienze di giochi che prendono ispirazione dai luoghi del territorio, vedi Isonzo che parla anche di Seconda Guerra Mondiale. Il Friuli Venezia Giulia ha un patrimonio notevole e quindi magari in prospettiva, in futuro, conclude Dresseno. Speriamo che vengano realizzati anche giochi ambientati qui. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. In contemporanea nazionale, su tutto il territorio è stato presentato il calendario dell'Arma per il 2025. A Trieste l'evento si è tenuto all'Hotel Savoia. Il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri per il prossimo anno ruota attorno al tema i carabinieri e i giovani, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra le generazioni e rafforzare i valori della legalità. L'opera, curata graficamente dal noto artista Marco Lodola e arricchita dai testi dello scrittore Maurizio De Giovanni, presenta un formato epistolare tra un maresciallo e suo figlio, affrontando temi come il bullismo, le dipendenze e l'inclusione sociale. Oltre al calendario sono state pubblicate altre opere collaterali, tra cui l'agenda, il calendario da tavolo dedicato ai borghi più belli d'Italia e c'è Sappada per il Friuli Venezia Giulia e il planning incentrato sull'impegno internazionale dei carabinieri. Va l'alpinista Nives Meroy la menzione speciale per l'alpinismo femminile del prestigioso premio Piolet d'Or, la Picozza d'Oro di quest'anno. La consegna dei premi si terrà tra l'8 e l'11 dicembre a San Martino di Castrozza. Il Piolet d'Or, premio per la salita in sé, non per l'alpinista che ne è protagonista, mira nelle ultime edizioni anche a promuovere l'alpinismo femminile. Nives Meroy è la prima italiana ad aver scalato l'Everest senza ossigeno con il marito Romano Bennett, ha raggiunto tutte le 14 cime oltre gli 8.000, prima coppia ad esserci riuscita. Nel 2023 la Meroy ha partecipato all'apertura della più importante via di alta quota che è stata aperta da un'alpinista donna, quella della parete ovest del Kabrusut, 7.318 metri nel Kangjungjunga. Riprendono le lezioni di storia promosse dal Comune di Trieste e dalla casa editrice La Terza. Il nuovo ciclo girerà attorno al tema della guerra dei sessi, il conflitto tra donne e uomini che nella storia si è declinato in forme assai diverse, coinvolgendo tutte le dimensioni della vita, dalla famiglia alla politica, dall'economia alla cultura. Sono 6 le lezioni in programma. La prima, il 17 novembre, con la docente di storia romana Francesca Cenerini, che parlerà della leggenda nera di Messalina. Il 1 dicembre sarà la volta della medievista Maria Giuseppina Muzzarelli su Santa Chiara d'Assisi. Il 19 gennaio poi Lisa Roscioni racconterà la storia di Marianna de Leiva, la monaca di Monza, mentre il 26 gennaio Alberto Mario Banti porterà il pubblico la scoperta di Madame Bovary. Al centro dell'appuntamento del 2 febbraio con Loris Zanatta sarà invece Eva Peron. Costantino D'Orazio chiuderà infine il ciclo il 23 febbraio parlando di Frida Kahlo. Le 12.50, lo sport, il basket, stasera alle 20.30 la Gesteco Cividale ospiterà la Acqua San Bernardo Cantù in occasione dell'ottava giornata di Serie A2. Cantù guida la classifica con Rimini e Rieti, il terzetto è rincorso da Cividale e Udine. Quest'ultima scenderà in campo domenica ad Avellino. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti durante il Ponte di Ognissanti. Oggi e domani visite secondo le consuete modalità di fruizione, quindi a pagamento. Il 3 novembre si rinnova inoltre l'appuntamento con Domenica al Museo, iniziativa del Ministero della Cultura, che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Giornata di accesso libero anche quella del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Gli spettacoli, Pat Metheny, grande protagonista ieri sera al Giovanni da Udine del concerto che ha aperto la rassegna Nuove Note di Euritmica. Due ore intere da solo sul palco per ripercorrere una carriera fatta di 50 album e 20 Grammy Award e che ha cambiato la storia della chitarra jazz. Pat Metheny riempie il Giovanni da Udine con un concerto che alterna gli standard più classici, anche di area pop, ai brani di sua composizione. Nella prima parte si distingue l'omaggio al contrabbassista Charlie Hayden, più volte compagno di viaggio. Nella seconda, purtroppo vietata alle telecamere per i soliti problemi di diritti per noi incomprensibili nelle era del digitale, protagonista assoluta la nuova chitarra espressamente costruita per il musicista americano, uno strumento dall'estensione speciale che consente di esplorare sonorità ancora nuove. La tappa di Udine era parte di un tour italiano che toccherà tra gli altri teatri anche l'auditorium della Casa della Musica a Roma. La rassegna Note Nuove di Euritmica, dopo questa super anteprima, prosegue il 20 novembre con Cristiano Godano di Marlene Kunz e Alessandro Stefana nell'omaggio a Neil Young. Tra gli ospiti attesi, fino a fine febbraio, ci sono anche Paolo Fresu e Stefano Bollani. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Festival Fiume di Notte Alto Livenza si chiude con la prima in Italia della prestigiosa Whitehall Orchestra, l'orchestra del governo britannico, diretta dal maestro Claudio Meo con il violoncellista solista Riccardo Pes. Concerto in programma alle 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile. La polifonica friulana Jacopo Tomadini si esibirà alle 20.30 al Duomo di Caorle eseguendo la messa da requiem in re minore di Aiblinger. Gli spettacoli debutta questa sera la nuova produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la nostra sede RAI. 26 ottobre Un mare di ombrelli di Gianni Gori, scritto in forma di radiodramma. Per la prima volta, oltre a essere trasmesso sulle frequenze RAI, sarà rappresentato nel suo farsi su una scena teatrale. La regia è di Paolo Valerio e quella radiofonica di Mario Mirassoli. Sola. Per il ciclo di spettacoli Teatro Comedy al Femminile della 20ª edizione della rassegna La Scena delle Donne, alle 20.45 al Teatro Capitol di Pordenone si esibirà Elisa Pistis nel suo monologo Articoli per Signore, viaggio ironico nel mondo delle donne attraverso le parole dei giornalisti uomini degli ultimi 100 anni. Uno spettacolo diretto da Annalisa Bianco. E alle 12.53 minuti e 40 secondi si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 1 novembre, che è stata redatta e condotta da Andrea Marussic e Giorgio Beerz con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie ancora dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.